in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Questa settimana vorrei iniziare con una sferzata di ottimismo, o meglio, con un invito a andare almeno a vedere con i nostri occhi questo paese, la Finlandia, perché la Finlandia per il settimo anno consecutivo è stata inserita in un speciale rapporto delle Nazioni Unite, la notizia di qualche mese fa, come paese più felice del mondo. Tra l'altro al secondo e terzo posto ci sono Danimarca e Svezia, quindi comunque magari già che si va in Finlandia ci si può fermare anche negli altri due paesi del nord Europa. Il settimanale spagnolo El País Semanal, che è appunto il settimanale del quotidiano El País, ha mandato un suo giornalista a vedere come mai la Finlandia si possa definire il paese più felice del mondo. E Internazionale, quello in edicola da ieri, ha tradotto questo articolo che si intitola La formula della felicità. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, appunto, la Finlandia è il paese più felice del mondo grazie a uno stato sociale ricco e inclusivo, a una profonda uguaglianza e a uno stretto rapporto con la natura. Poi, naturalmente, andando lì si viene... Forse magari per noi che siamo abituati ad altre temperature conviene andare quando durante il periodo estivo, insomma, però si possono scoprire anche questi incredibili paesaggi. Tra l'altro nel nord della Finlandia c'è anche un paese, mi sembra che si chiami lì, non c'è in questo articolo, ma avevo sentito un reportage alla CNN qualche tempo fa, che è già oggi a emissioni zero. Quindi il rapporto con la natura vuol dire anche rispetto per la natura e vuol dire anche quindi cercare di essere il più ecosostenibili possibile. A proposito di essere sostenibili in un senso più largo dal punto di vista sociale, la Süddeutsche Zeitung è tornata sul tema, che tra l'altro è d'attualità anche in Italia. Sapete che al porto di Genova ci sono delle proteste per fermare le navi che trasportano armi. Questo tema della vendita di armi da parte di paesi europei, e l'Italia in questo è tra i primi, tra l'altro, come produttore e come esportatore di armi, campeggia sulla Süddeutsche Zeitung perché il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas ha dato un'intervista dove ha spiegato che sì, da una parte è giusto mantenere l'embargo sulle armi verso la Siria, un embargo a livello europeo, però ci sono difficoltà poi a sorvegliare i mari, quindi veramente a mettere in pratica questo embargo, ed è legato al fatto dell'operazione Sofia, che secondo Heiko Maas dovrebbe essere ripristinata. Abbiamo parlato invece anche a Effetto Mondo mercoledì di questo lungo articolo richiamato sulla prima pagina di Le Monde sul ponte di Genova. In effetti, credo, io a memoria non ricordo di un'opera pubblica così importante, tra l'altro naturalmente dal valore simbolico enorme, come sono tutti i ponti, ma anche perché, lo ricordiamo, il 14 agosto del 2018 il ponte crollò, il ponte Morandi di Genova, e ci furono 43 morti. Per la prima volta, appunto, che io ricordi, e lo scrive anche Le Monde, naturalmente, grazie anche a questo sistema di commissariamento e corsia preferenziale per molti appalti, in effetti la tabella di marcia potrebbe essere rispettata e già per l'estate il ponte potrebbe essere non soltanto inaugurato, ma anche collaudato e operativo. Dal Wall Street Journal invece e da altri quotidiani americani vi segnalo da una parte lo scontro, e anche questo ci fa capire che tante cose non sono tipiche solo dell'Italia, in particolare appunto la delicatezza della materia giustizia, dell'equilibrio tra poteri all'interno di uno Stato democratico. Si trova molto spazio questo scontro tra Donald Trump e Barr, che è l'Attorney General, che poi è il modo americano per definire quello che noi chiamiamo il ministro della giustizia, cioè il capo del Department of Justice, il ministero della giustizia americano. Il Donald Trump, che usa, sapete, Twitter per comunicare le sue emozioni, le sue sensazioni, ma anche per mandare messaggi soprattutto a quelli che lui considera nemici politici e non solo, e ha fatto una serie di tweet molto offensivi nei confronti dell'operato del Dipartimento della Giustizia, e Barr, che comunque è un uomo di Trump perché fa parte dell'amministrazione Trump, ha detto che così non si può lavorare serenamente. E il Wall Street Journal, che comunque sostiene Trump e anche le misure economiche di Trump, ha pubblicato un editoriale che si intitola Il peggior nemico di Trump è Trump stesso, perché queste esagerazioni appunto rischiano di ritorcersi contro di lui, perché l'equilibrio tra poteri negli Stati Uniti è forse un po' più sacro di quello che succede qui da noi. Invece sulle conseguenze del coronavirus ho trovato due, perché naturalmente ci sono le conseguenze economiche, di quelle abbiamo parlato tanto, ci sono anche tante incertezze sugli effetti negativi dell'epidemia di coronavirus, poi ci sono tutte le conseguenze, potremmo dire, umane, oltre che legali, perché i quotidiani spagnoli parlano delle battaglie legali che si stanno preparando tra gli organizzatori della fiera della telefonia mobile di Barcellona, che è stata cancellata, e tutte le aziende che hanno prima detto che non avrebbero partecipato, ma erano aziende talmente di peso come Facebook e altri colossi del settore tecnologico, che a un certo punto la fiera non aveva più ragion d'essere e quindi è stata cancellata. Ma gli organizzatori non accettano l'idea di defezioni per causa di forza maggiore, cioè il coronavirus, e quindi chiederanno i danni, quindi battaglie legali all'orizzonte. Mentre per quanto riguarda il lato più umano, da una parte i quotidiani australiani, e l'Australia è un paese che ha accolto tantissimi studenti cinesi, come il Canada del resto, negli ultimi anni i cinesi figli, soprattutto i cinesi in età universitaria e figli nati in famiglie diventate facoltose nello sviluppo degli ultimi 10-15 anni della Cina, spesso studiano in Australia, ma questa epidemia, il blocco dei voli e naturalmente le paure reciproche delle famiglie, degli studenti e anche delle famiglie che li accolgono in Australia porteranno di fatto a un blocco di questo scambio, che è anche uno scambio culturale. L'altra conseguenza, invece ne parlano i quotidiani americani, ci sono le adozioni internazionali che coinvolgono bambini cinesi, sono di fatto bloccate, e quindi si racconta per esempio la storia, in particolare sulla prima pagina di USA Today, di una signora americana che aveva già pronte le valigie per partire per la Cina, seguire tutto l'iter di soggiorno di 2-3 settimane, anche mesi, in loco, per vedere se si stabilisce un legame con il bambino da adottare, e poi il ritorno negli Stati Uniti. E lei dice: io non le disfo neanche le mie valigie, ma di fatto non so quando potrò partire. E cambiamo decisamente argomento, vi porto su un altro quotidiano, su El País, quotidiano spagnolo, l'edizione in portoghese, perché El País ha appunto anche un'edizione in portoghese che poi soprattutto online viene letta in tutti i paesi di lingua portoghese o derivata dal portoghese, come il Brasile. Perché in questo articolo si dà conto di tutti i dati di Atlas Politico, che è una società che fa sondaggi sulla politica di tutti i paesi di lingua spagnola e portoghese in generale, del Sud America e dell'America Centrale, e in questo articolo si spiega che Jair Bolsonaro, l'attuale presidente del Brasile, è il candidato con più chance di vittoria se si andasse a votare oggi, e si imporrebbe persino sull'ex presidente Lula da Silva, che sapete è stato scarcerato dopo essere stato in carcere con accuse pesanti di corruzione, e Bolsonaro in questo momento, soprattutto per i primi segnali positivi dell'economia, perché poi alla fine sembra che veramente le elezioni si giochino su quello, non soltanto in Brasile naturalmente, avrebbe appunto questo vantaggio. Vi porto, torniamo un attimo sul Wall Street Journal, perché oltre a occuparsi appunto di queste ultime frizioni, queste ultime nel senso ultime in ordine di tempo, frizioni tra Trump e un membro della sua amministrazione, sapete che Trump ne ha licenziati parecchi da quando è entrato in carica, ma Wall Street Journal dà anche conto di questo stop che ha avuto Facebook, che avrebbe voluto lanciare la sua app per appuntamenti anche in Europa, negli stati, Facebook Dating, per ora non può farlo perché bisogna fare delle verifiche a livello europeo comunitario sul rispetto di alcune norme sulla privacy. Ultimissima segnalazione, Non è un argomento felice. Abbiamo iniziato con appunto l'articolo sulla Finlandia, ma è inutile far finta, dimenticarci che in Siria c'è ancora una situazione terribile, in particolare nella regione di Idlib, e vi riporto su Internazionale che ha pubblicato questo reportage, ha tradotto questo reportage del New York Times che si intitola "I siriani lasciati soli di fronte alla morte". Lo ha, in realtà più che un reportage, è l'intervento di Vahd Al-Khateeb, che è la regista del documentario "La mia piccola Sama", che ha vinto come miglior documentario, scusate, era candidato, perché poi ha vinto il documentario sulle fabbriche americane, era candidato agli Oscar come miglior documentario, e appunto ci spiega che nella regione di Idlib si ripete quello che è successo in tutte le aree del paese riconquistate dal regime, cioè massacri di civili. E mi dispiace concludere su questa nota, però ripeto, non possiamo far finta di non sapere quello che succede in Siria, visto che abbiamo anche parlato dell'embargo europeo di armi verso la Siria. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.